Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Vi ricordate di questa canzone? Scommettiamo che vi sarà capitato di sentirla passare più di una volta alla radio o su MTV sul finire degli anni 90. Il pezzo risale per la precisione al 1997 ed è di una delle boy band più celebri del pianeta, i Backstreet Boys. Perché ve lo diciamo? Beh, perché siamo stati colpiti da una notizia piuttosto recente. Un celebre attore hollywoodiano, ben prima di diventare un divo del grande schermo, avrebbe rischiato di entrare a far parte proprio dei Backstreet Boys. Ad affermarlo è uno dei membri della band, un tempo suo vicino di casa. Una carriera musicale sfumata in favore di un posto nell'Olimpo delle star di Hollywood. Lui, il Backstreet Boy mancato, è niente meno che Ryan Gosling. Ryan Gosling. Negli ultimi 2 anni Gosling si è affermato come uno degli attori più corteggiati e desiderati dall'intera industria del cinema. Capelli biondo castani, occhi blu, tratti somatici ben delineati, voce calda e suadente. Tutte caratteristiche queste che possedeva anche prima del 2011, anno in cui ha fatto il botto, per così dire. A consacrarlo definitivamente nell'immaginario e nei sogni di milioni di fan in tutto il mondo, sono stati senza ombra di dubbio un ruolo e un film in particolare. Un'interpretazione intensa, sospesa tra infiniti silenzi e parole scandite con gravità. Posso parlarti? Non ci metterò molto. Devo andare in un posto e non penso che riuscirò a tornare. Volevo solo dirti che aver conosciuto te e Benicio è stata la cosa più bella che mi sia mai capitata. Questa romantica e struggente confessione telefonica è pronunciata da Ryan Gosling in Drive, pellicola del 2011 che non solo ha portato Gosling sotto i riflettori del mondo intero, ma ha regalato a chi l'ha diretta la Palma d'Oro come miglior regista al Festival del Cinema di Cannes. Lui, il regista salito agli onori delle cronache cinematografiche mondiali grazie a questo crime drama dal forte impatto psicologico, è un brillante quarantenne di origini danesi che risponde al nome di Nicholas Winding Refn. Nicholas Winding Refn. Sul set di Drive, Ryan Gosling e Nicholas Winding Refn hanno compiuto uno di quei miracoli che al cinema non riescono tutti i giorni. Unire il plauso della critica a quello delle grandi platee. Ma come ci saranno riusciti? Al Festival del Cinema di Cannes nel maggio del 2011, Drive si è meritato addirittura la standing ovation del pubblico in sala al termine della proiezione. Una bella soddisfazione per un regista che fino a non molto tempo prima si sentiva un mezzo fallito ed era responsabile di fatto del fallimento della casa di produzione del film che avrebbe dovuto segnare il suo ingresso nella Hollywood che conta. Facciamo un passo indietro e ripercorriamo la carriera, le fortune e le sfortune di questo nuovo figliol prodigo dell'industria cinematografica. Sono cresciuto in una famiglia dove il cinema era al centro di tutto. I miei genitori ai loro tempi erano cresciuti a pane e Nouvelle Vague. Praticamente la Nouvelle Vague era la loro divinità assoluta. Ma per me invece era tutto il contrario. Quella roba era una specie di anticristo. E il modo migliore per un ragazzino di ribellarsi al volere della propria madre, cinefila per di più, era quello di guardare film che le dessero il voltastomaco. Per esempio gli horror americani. Uno su tutti, Non aprite quella porta. Quando l'ho visto ho capito che non volevo fare il regista. Né tantomeno lo sceneggiatore. Non mi interessava fare il produttore, il direttore della fotografia, il montatore o quello che si occupa del suono. Io volevo essere tutte quante queste figure contemporaneamente. Un ragazzino ambizioso, non c'è che dire. Un po' forse per reazione, ma certamente in buona parte per spirito di emulazione. Sia suo padre, Anders Refn, che sua madre, Vibce Winding, lavorano in ambito cinematografico. Lui si occupa di regia e montaggio, mentre lei è un'apprezzata direttrice della fotografia. Certo, hanno in comune la passione per il cinema, ma questo non basta certo a tenere in piedi un matrimonio traballante. È così che all'età di 8 anni Nicholas lascia la nativa Danimarca per trasferirsi a New York con la madre e il patrigno, in seguito al divorzio dei genitori. Un'esperienza che in qualche modo lo traumatizza, se all'età non proprio tenera di 12 anni non ha ancora imparato a leggere. I medici sentenziano la diagnosi, dislessia. Nicholas non saprà decodificare le parole scritte, ma con le immagini in compenso è un vero fenomeno. Sono proprio i fotogrammi che scorrono su uno schermo a fornirgli, in mancanza di altro, una chiave per interpretare il mondo. In casa mi chiamavano l'enfant sauvage, il ragazzo selvaggio. In effetti ero abbastanza arrogante, pieno di me, scostante con gli altri e cosa peggiore, ero pieno di manie di grandezza. La costruzione del suo rapporto col mondo, così come la ribellione ad esso, passano rigorosamente attraverso il grande schermo. La visione di uno dei film horror più celebrati della storia del cinema, Non aprite quella porta, destinato a diventare un vero e proprio cult per le generazioni future, lo segna in modo da imprimere in lui l'eterna fascinazione per la violenza. Come tutte le forme d'arte, anche i film sono potenti esattamente come fossero delle armi di distruzione di massa. L'unica differenza è che le armi che si usano in guerra sono fatte apposta per distruggere, mentre le armi che si usano al cinema sono fatte per suscitare emozioni, per ispirare. E nell'immaginario di un giovane un po' arrabbiato, le armi possono essere rappresentate, perché no, anche da oggetti di uso quotidiano. I banchi di scuola, per esempio. Quando è uno studente dell'American Academy of Dramatic Arts di New York, a Nicholas capita di tirare un banco contro un muro della classe, come espressione estrema del suo disappunto. Beh, naturalmente viene espulso dall'istituto. Non gli resta che tornare nel suo paese natio, la Danimarca, e tentare la fortuna in qualche scuola di cinema laggiù. A dire il vero, poi, la fortuna non la tenta proprio in una scuola di cinema qualunque, ma alla National Film School of Denmark, una delle istituzioni più prestigiose e ambite del paese. Non sono molti gli studenti ammessi a frequentare quei corsi. Nell'anno in cui si iscrive Nicholas, tanto per dire, si tratta appena di 6 persone. E lui, manco a dirlo, è fra questi 6. Il fatto che possieda del talento è innegabile, almeno quanto il fatto che possieda un caratteraccio. Ma né gli insegnanti, né gli studenti, né tantomeno i muri della National Film School of Denmark devono temere la sua presenza. Anche perché il suo soggiorno in quelle aule durerà davvero poco. Anzi, non durerà proprio per niente. Un mese prima dell'inizio delle lezioni, infatti, dopo aver superato la durissima selezione per la missione, Nicholas riceve un'offerta che non può certo rifiutare. Un produttore ha visto un suo cortometraggio in onda una notte su un improbabile canale via cavo danese. Si tratta di un lavoro che poco tempo prima aveva scritto, diretto e perfino interpretato. Un cortometraggio casalingo, certo, ma pieno di potenziale. Forse si potrebbe svilupparlo e tirare fuori un lungometraggio. Nicholas non ci pensa 2 volte. Ma che cazzo me ne frega della scuola di cinema? Ho un film da fare io. Imparare nozioni stando dietro un banco o impararle mettendosi immediatamente in gioco, sporcandosi le mani e provando sul campo cosa significhi davvero fare il regista? Meglio la seconda ipotesi, specialmente se si ha poco più di 20 anni. Un po' di sana incoscienza non guasta mai in questi casi. Sana incoscienza mista a quel tanto di arroganza e di consapevolezza della propria bravura. Ecco la ricetta vincente di Pusher, il debutto cinematografico di Nicholas Winding Refn nel 1996. Una storiaccia di droga e violenza ambientata nei sobborghi della capitale danese Copenaghen, città che tutti sono soliti ricordare per ben altre cose, tra cui la sirenetta e gli inequivocabili segni del senso civico scandinavo. Qui invece, altro che senso civico, ci sono solo violenza e un protagonista che è maledetto fin da principio, un uomo dalla vocazione autodistruttiva, che ha difficoltà a relazionarsi in modo sereno con il mondo. Un film dal piglio documentaristico e fresco, nonostante la tematica pesante. Un esordio dietro la macchina da presa così riuscito da attrarre l'attenzione anche di un distributore inglese, che decide di regalare visibilità al film anche al di fuori del paese d'origine. Beh, è lì che la mia vita è cambiata completamente. Dopo Pusher, pellicola low budget che dispiega tutto il suo talento, Refn sembra avere la strada spianata. Il suo secondo lungometraggio, Bleeder, continua a esplorare l'universo della malavita e a ritrarre uomini borderline, sempre in bilico fra il bene e il male, fra il giusto e lo sbagliato. Questo senso di precarietà, di chiaroscuro che permea i protagonisti dei suoi lavori, rimarrà una costante narrativa per tutta la sua carriera. E i chiaroscuri, in effetti, sono una costante anche della vita dello stesso regista. Sembra che le cose per Nicholas siano messe decisamente bene quando a poco più di 30 anni sta per fare il suo debutto hollywoodiano. È il 2003 ed ha scelto come protagonista del suo primo film americano l'attore John Turturro. Fare film è l'unica cosa al mondo che può avvicinarsi, anche se solo lontanamente, all'idea di partorire. È un'esperienza emotivamente molto complessa, una cosa che per noi uomini è difficile da capire. È praticamente impossibile vivere le stesse sensazioni che vive una donna in quei momenti. Insomma, per questo le donne in generale sono molto più sofisticate e interessanti di noi. Le donne dovrebbero comandare il mondo intero. Ma il figlio che Nicholas Winding Refn sta per dare alla luce gli darà molti più problemi di quello che si aspetterebbe. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back. Fear X, terzo film di Nicholas Winding Refn, stavolta ha come protagonista un attore acclamato di Hollywood, l'italo-americano John Turturro. Non più sconosciuti attori scandinavi, ma un volto che dovrebbe essere un lasciapassare per il successo a livello mondiale. Fear X viene presentato al Sundance Festival, il tempio americano del cinema di qualità, nel gennaio del 2003. La critica lo apprezza, ma altrettanto non si può dire del pubblico nelle sale. Non c'è ombra di dubbio sul fatto che i 6 milioni e 600 mila dollari di budget non rientreranno mai nelle casse di chi li ha spesi per la produzione. Soldi che ha tirato fuori di tasca sua anche Refn in persona, finanziando la pellicola tramite la sua casa di produzione, la Django Star. Ma il tremendo flop commerciale di Fear X ne provoca la bancarotta. La Django Star chiude i battenti e Nicholas, invece di avviarsi sul viale di Hollywood lastricato di stelle, sembra incamminarsi sul suo personale viale del tramonto. È stato un periodo tremendo. Dovevo $1 milioni a qualcuno e mia moglie stava per partorire. Il giorno in cui è nata mia figlia mi ricordo nitidamente di aver passato ore nel nostro appartamento a cercare dappertutto spiccioli di soldi stranieri per andare a cambiarli in corone danesi. Questo per darti un'idea di quanto fossimo sul lastrico. I miei genitori poi ci hanno dato una mano. Se non fosse stato per loro, non ce l'avrei fatta. Una soluzione, a dire il vero, c'è. Si tratta di buttarsi in una nuova avventura cinematografica decisamente poco allettante dal punto di vista artistico, ma di sicura presa dal lato commerciale. E questo non è certo il momento di fare gli schizzinosi, non vi pare? Nicholas decide quindi di girare ben due sequel del suo film d'esordio, quel Pusher che qualche anno prima aveva fatto di lui un regista di belle speranze. Beh, certo, l'idea mi faceva schifo, però non credo che fosse tanto per la cosa in sé. Era più il fatto che avevo paura. Non è mica facile tornare indietro e riprendere in mano una cosa vecchia, ma magari non sei più capace di maneggiarla. E se davvero non fossi stato capace? Se avessi fatto due film peggiori e più brutti di quello che li aveva generati? La riluttanza iniziale di Refn è comprensibile, ma il talento anche stavolta non mente. Pusher 2 è un ottimo lavoro, che gli porta nuovi riconoscimenti di critica e finalmente anche di pubblico. Lo gira in Danimarca con pochi mezzi, spesso scegliendo attori non professionisti per ammortizzare i costi. Lo stesso accade con Pusher 3, nuovo e ulteriore successo commerciale che gli consente di uscire dal suo periodo buio per buttarsi in nuovi progetti. Comincia con un film per la TV inglese, l'adattamento di un romanzo di Agatha Christie con protagonista l'arzilla Miss Marple. Un modo per fare soldi facili, ma anche per farsi notare da qualche scaltro produttore inglese. Missione compiuta. Nel 2006 gli viene affidata la storia del carcerato più famoso d'Inghilterra, Michael Peterson, conosciuto da tutti con il soprannome di Charles Bronson. Il mio nome è Charles Bronson e per tutta la vita ho cercato di diventare famoso. Volete sapere qual è la cosa migliore che sono riuscito a fare? Avvertivo una vocazione, solo che non sapevo quale fosse. Non era cantare, non era recitare. Non ci sono più altre chance, giusto? Bronson incontra il plauso pressoché incondizionato della critica, che lo paragona addirittura ad Arancia Meccanica di Stanley Kubrick. Dopo un tuffo nella mitologia vichinga con il complesso Valhalla Rising, girato in Scozia nel 2009, Nicholas Winding Refn sembra davvero pronto per fare di nuovo il salto di qualità e ritentare la fortuna a Hollywood. Non è forse questo il sogno di qualunque regista? Dopotutto, gli è andata male una volta, ma non gli potrà andar male per sempre, no? L'Europa gli sta troppo stretta. L'America è il nuovo traguardo. Los Angeles è una città gigantesca in cui è facile perdersi fisicamente e metaforicamente se non si hanno le idee troppo chiare. Nicholas Winding Refn è volato qui dall'Europa in cerca di un progetto nuovo, qualcosa che gli consenta di fare l'agognato salto di qualità, ma non sa bene come orientarsi. Forse dopo tutto non spetta a lui trovare il progetto giusto. Forse sarà il progetto a trovare lui e lo farà incarnandosi in una persona, in un attore, per la precisione. Beh, ho letto così tanti copioni di film d'azione e ho sempre voluto fare un film di quel genere, sempre. Ma quando ho letto questo, beh, questo era il film che volevo fare, proprio lui. Era il film d'azione fatto da uno che ha visto troppi film d'azione e non sa più distinguere i film dalla realtà. È un po' così anche per me, perché ho letto così tanti script e visto così tanti film di quel tipo. Ma quando ho letto questo, ripeto, ho avuto una sensazione diversa. Ryan Gosling è un attore davvero promettente, che è lì lì per diventare uno dei volti più riconoscibili e ambiti di Hollywood. Gli capita per le mani uno script. È la storia di un giovane guidatore senza nome, in bilico fra bene e male, fra violenza e delicatezza, alle prese con certe storiacce di malavita a Los Angeles. Quel copione gli piace immensamente. E la casa di produzione che si occupa del progetto, oltretutto, gli ha dato carta bianca sulla scelta del regista. Sarà proprio lui, l'attore protagonista, a decidere chi dovrà girare il film. Gosling ha già un nome in mente. È quello di un regista danese che qualche tempo prima aveva colpito la sua attenzione. Sa che Nicholas si trova in città alla ricerca di un progetto e organizza subito un incontro. È così che inizia la storia di Drive. Destini incrociati. Los Angeles 2010. L'attore Ryan Gosling e il regista Nicholas Winding Refn sono seduti al tavolo di un bar. È stato Gosling, attore promettente ma non ancora consacrato, a volere quell'incontro. Ha appena finito di leggere il copione di un film e ha pensato che nessuno più di Refn sarebbe perfetto per dirigerlo. Quel film, Drive, potrebbe rappresentare il salto di qualità che entrambi vogliono. Alla casa di produzione mi hanno dato questa opportunità, che è una cosa che a me fino a quel momento non era mai capitata. E cioè, insomma, mi potevo scegliere io il regista. E per me, beh, non c'erano dubbi. Era chiaro che Nicholas era quello giusto. È in assoluto uno dei miei registi preferiti. Non c'è nessuno come lui per me. Ryan Gosling sta per offrire a Nicholas Winding Refn l'occasione che aspetta da 15 anni, da quando ha cominciato a fare il regista. Eppure Refn, incredibilmente, sembra non mostrarsi particolarmente entusiasta. Io ho chiesto di incontrarlo e quindi ci siamo trovati. Ci siamo seduti e siamo rimasti lì per un paio d'ore. Lui non mi guardava in faccia e non mi parlava. Sembrava annoiato, disinteressato e davvero poco contento di star lì. Avevo la sensazione di essere a uno di quegli appuntamenti con una ragazza che vanno malissimo, è presente? E niente, a un certo punto ho pensato che dovevo andarmene a tutti i costi perché mi sentivo malissimo. E in quel momento lui mi ha parlato, mi ha detto di avere l'influenza e che gli avevano prescritto questi farmaci che l'avevano completamente rincoglionito. Insomma, era strafatto e mi ha chiesto di accompagnarlo a casa. E quindi siamo saliti in macchina e c'era quel silenzio strano, sai, no? Imbarazzato. E beh, allora ho alzato la musica a palla. Nella sera a Los Angeles, un attore e un regista che si conoscono a malapena sfrecciano a bordo di un'automobile. Forse è proprio questo viaggio, all'inizio così strano, imbarazzante, a cementare per sempre la loro amicizia. La musica esce con forza dall'impianto stereo della macchina e Nicholas, un po' stordito dai farmaci, si mette a cantare a squarciagola. Ryan lo lascia fare. Un senso di liberazione, un'emozione fortissima lo pervade ed è tutto chiaro. All'improvviso. E mi ha detto: ho capito tutto. Questo sarà il nostro film, un film che parla di un uomo che guida in giro per Los Angeles, di notte, ascoltando musica pop, perché quello è l'unico modo in cui riesce a provare emozioni. Due quasi estranei che a bordo di un'auto una sera diventano amici e complici di un successo che ancora non si aspettano, ma che di lì a non molto cambierà le loro vite. Tutto merito dell'intraprendenza di un giovane attore di origini canadesi, un ragazzo che ha sempre saputo quello che voleva, fin da quando era molto piccolo. Who's the leader of the concert? Difficile non riconoscere questa canzone, anche se noi di norma siamo abituati a sentirla cantare in italiano. Si tratta della famosa marcia di Topolino, che nella sua versione originale è stata per anni la sigla del Mickey Mouse Club, storico programma televisivo ideato da Walt Disney in persona. A partire dal lontano 1955, anno della sua nascita come traino promozionale del nuovissimo parco a tema Disneyland in Anaheim, California, il Mickey Mouse Club ha sfornato giovani talenti pronti a tutto pur di conquistare le platee televisive e non solo. L'annata del 1993, in particolare, è stata particolarmente feconda. Alle audizioni per far parte del cast si sono presentati in ordine sparso niente meno che Britney Spears, Justin Timberlake, Christina Aguilera, Jessica Simpson e con loro anche un ragazzino canadese dalla faccia pulita che risponde al nome di Ryan Gosling. Ryan cresce a Cornwall, paesone a circa un'ora di distanza da Montreal. Un posto non brutto, ma nemmeno particolarmente attraente. E per di più a Cornwall fa un freddo cane. Così freddo che Ryan, quando ancora non ha 10 anni, giura a se stesso che da lì se ne andrà al più presto. Una volta per strada, mentre tornavo a casa da scuola, ho visto un gatto congelato, rigido come se l'avessero appena tirato fuori dal freezer. Ho pensato, dai, questo è troppo. Appena ho l'età per la patente me ne vado in California. Forse non ancora in California, ma in Florida ci va di sicuro. E ben prima dell'età della patente. A 13 anni Ryan entra a far parte del cast del Mickey Mouse Club e si trasferisce nella città di Orlando. I 2 anni di lavoro per la Disney gli insegnano molte cose sullo show business, nonostante sia solo un ragazzino. Innanzitutto gli servono per capire che quello e nessun altro è il lavoro che vuole fare. Al termine dell'esperienza con la Disney, Ryan torna in Canada e continua a lavorare in produzioni per la TV, fino al suo primo ruolo importante, per così dire. Quello del giovane Hercules nella serie omonima che viene girata in Nuova Zelanda. Ma in fondo non mi sembra passato poi molto tempo da quando recitavo in uno show che si chiamava Young Hercules, nel quale ero lampadato e indossavo dei pantaloni di pelle attillati mentre combattevo contro schiere di mostri immaginari. A dirla tutta, Young Hercules non è proprio una di quelle serie televisive destinate a diventare cult. Però, se non altro, regala Gosling un po' di visibilità e gli permette di capire in definitiva di essere stufo di lavorare in televisione. Il piccolo schermo inizia a stargli decisamente stretto. Meglio pensare in grande, no? Meglio pensare al grande schermo. Pensare al grande schermo. Beh, è più facile a dirsi che a farsi, specialmente se arrivi dalla gavetta in televisione. Gli addetti ai lavori, quelli che già lavorano in ambito cinematografico, ti guardano sempre con sospetto. È come se avessi una specie di marchio, una sorta di colpa da espiare. Serve molta motivazione per superare questa fase. E certo a Ryan non è mai mancata. Superato lo scoglio iniziale, Gosling dà subito prova del suo talento interpretando un ruolo difficilissimo in un film indipendente dal titolo The Believer, dove gli tocca vestire i panni di un giovane neonazista. Un ruolo decisamente controverso, che gli frutta tuttavia l'apprezzamento incondizionato della stampa. Ryan trionfa al Sundance Festival e anche se il film si rivela un flop commerciale, gli serve per capire da che parte vuole stare. E a quel punto sono rimasto per un po' nell'ambito del cinema indipendente. Lì mi sentivo a mio agio come in nessun altro posto. Lì sentivo di avere una voce. Al neonazista di The Believer seguono una serie di ruoli forse meno complessi, ma comunque sofisticati, sempre nell'ambito del cinema indipendente. Gosling consolida così la sua fama di attore di talento fino a farsi riconoscere finalmente anche nel circuito mainstream. Nel 2010 il suo ruolo in Blue Valentine gli regala parecchia notorietà, oltre che la fiducia pressoché incondizionata delle case di produzione. Dove c'è il volto di Gosling di solito si annida un successo. Questo è quello che tutti iniziano seriamente a pensare. Gosling all'inizio del secondo decennio del 2000 e dopo quasi un ventennio di gavetta ha tutte le carte in regola per diventare uno degli attori più ambiti di Hollywood. Ma quello che gli serve per completare l'opera ora non è certo un ruolo qualunque in un film qualunque. E nemmeno il prossimo regista che lo dirigerà potrà essere un regista qualunque. ed è a questo punto della storia che entra in gioco Nicholas Winding Refn. E io lo definirei un accoppiamento di anime, proprio nel senso del sesso, dico. L'intesa fra i due, dopo i primi momenti di imbarazzo, si rivela essere totale. Gosling e Refn si imbarcano anima e corpo nel progetto di Drive, vivendo una perfetta simbiosi sia sul set che fuori dal set. Ogni giorno, finite le riprese, tutto il cast e buona parte della crew si ritrovano a casa del regista per rivedere parte del girato, montare alcune scene, ascoltare musica, guardare altri film, mangiare, bere e, perché no, prendere l'automobile e andare a zonzo di notte per le strade di Los Angeles, proprio come accade al protagonista di Drive, interpretato da Gosling. Tutto, durante il periodo dello shooting della pellicola, sembra già presagire un enorme successo. Destini incrociati. Il regista danese Nicholas Winding Refn e l'attore canadese Ryan Gosling si sono appena imbarcati insieme nell'impresa di un nuovo film. Entrambi sperano che Drive sia la pellicola giusta per proiettarli una volta per tutte nell'Olimpo della Hollywood che conta. Gosling è reduce da un paio di film di risonanza internazionale ed è sul punto di spiccare il volo. Refn vuole definitivamente allontanare da sé il mostro della sua bancarotta del 2003, diretta conseguenza del flop commerciale del film Fear X. Stavolta le cose saranno diverse. Di sicuro, tanto per cominciare, l'ambientazione della sua nuova vita è completamente diversa. Così sono andato a vivere in una casa con la piscina ed un frutteto nel giardino, in mezzo alle colline, con la scritta che recita Hollywood proprio a portata del mio sguardo. Insomma, ero dentro fino al collo al mito dell'europeo venuto a Los Angeles per girare un film. Un film che di fatto si rivela un capolavoro. Presentato al Festival di Cannes nel maggio del 2011, Drive viene accolto con tutti gli onori possibili. La Palma d'Oro a Refn come miglior regista ne è un esempio lampante. Sul red carpet della celebre Promenade de la Croisette di Cannes, Ryan Gosling e Nicholas Winding Refn si presentano insieme, quasi fossero una coppia di innamorati. È stato come andare insieme al ballo della scuola. I riflettori e i flash dei fotografi quella sera sono puntati in modo particolare sul volto sorridente di Ryan Gosling, incoronato a furor di popolo come il nuovo divo del cinema. Da qui in avanti la sua carriera sarà praticamente inarrestabile. Cincinnati, Ohio, primavera 2011. Ryan Gosling e George Clooney stanno chiacchierando amabilmente durante una pausa sul set dell'ultimo film di Clooney, Lady di Marzo. Gosling è il protagonista maschile e veste i panni dell'uomo tuttofare della campagna elettorale di George Clooney, che in questo caso è sia regista che coprotagonista della pellicola. Lady di Marzo è solo uno dei tanti film che Gosling sta girando contemporaneamente in quel periodo. Tutti lo vogliono e lui non si tira di certo indietro. Non ho mai avuto così tante energie come in questo periodo della mia vita. L'idea di girare film mi esalta molto più adesso di quanto non avesse mai fatto in passato. In un certo senso mi ha sempre un po' messo paura. È una cosa emotivamente destabilizzante recitare. Ma ora ho imparato a divertirmi mentre lo faccio e credo che questo si intuisca poi guardandomi dentro i film. Alla sua nomination come migliore attore ai Golden Globe per il ruolo drammatico nello struggente Blue Valentine si aggiunge quella sempre come migliore attore per il ruolo nella commedia Crazy Stupid Love, uscita nelle sale sempre in quel periodo. Un momento davvero propizio per Gosling e non solo per lui. Le cose girano per il verso giusto anche a Nicholas Winding Refn, che oltre ai riconoscimenti sacrosanti da parte della critica mondiale, inizia a diventare un nome che circola sulla bocca di tutti. Non più un regista di nicchia, ma un cineasta universalmente apprezzato, anche dal grande pubblico. E come è già successo a molti altri grandi cineasti prima di lui, da David Lynch a Michael Mann, anche a Nicholas Winding Refn viene chiesto di girare uno spot pubblicitario. E non certo uno spot qualunque. Si tratta della nuova campagna della prestigiosa casa di moda Yves Saint Laurent, che ha per protagonista l'affascinante attrice Jessica Chastain. La storia della campagna di Yves Saint Laurent inizia con un'asta. C'è un quadro che sta per essere venduto e un uomo molto bello che lo sta per comprare. E già si immagina di possederlo e fantastica sulla donna che lo ha dipinto, che è splendida. E insomma, quando l'asta sta per chiudersi, entra lei. Proprio lei, la pittrice, e glielo soffia. Lui è devastato, non può credere a quello che è appena successo. Alla fine però lei glielo cede, perché il suo potere sta nella sua bellezza, non in quell'oggetto. Lei è una sorta di dea, ma al contempo è anche umana. La pubblicità lo corteggia e lui si lascia corteggiare volentieri, ma il cinema naturalmente resta il suo chiodo fisso. E visto com'è andata l'ultima volta, perché non ripetere l'esperienza senza variare troppo gli ingredienti di una ricetta di successo? Refn e Gosling insieme di nuovo possono arrivare ancora una volta in cima al mondo. E forse lo faranno il prossimo maggio, quando Gosling interpreterà Julian, un inglese che vive a Bangkok ed è rispettato nell'ambito della malavita. Tra incontri di Thai box e traffici internazionali di stupefacenti, Ryan Gosling dovrà di nuovo districarsi in un universo fatto di estrema violenza, come Nicholas Winding Refn comanda. Il regista di recente ha parlato con toni entusiastici del progetto e della capitale thailandese in cui è stato girato. Adoro questa città. Vado spessissimo in giro e mi sembra di stare sul set di Blade Runner. Posso mangiare cibo thailandese tutti i giorni, comprare giocattoli, robot, persino locandine originali di vecchi film. Pensa che ieri ne ho trovati due di Godzilla. Anche Gosling è entusiasta del progetto di questo film, che si intitolerà Only God Forgives, letteralmente Solo Dio Perdona. È in assoluto il copione più assurdo che io abbia mai letto. Fra i prossimi obiettivi di Gosling c'è anche la direzione di un film. Si intitolerà How to Catch a Monster e uscirà con tutta probabilità nel 2014. Fra i membri del cast e della crew saranno presenti molte persone che avevano già lavorato sul set di Drive. Una squadra affiatatissima, consolidata grazie a un lavoro di qualità baciato dalla giusta dose di successo. Sul set di How to Catch a Monster, praticamente, mancherà solo Nicholas Winding Refn, che Ryan Gosling, anziché fare l'attore per tutta la vita, abbia deciso di rubargli il mestiere? Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Altri destini si incroceranno domani alle 15 qui su Radio 24.